ragionate bene. Con una temperatura di 35 gradi, ognuno di voi libera 70 unità odorose e ogni foglia ne assorbe 5.